Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Robert Jordan si stava ora calando nell'intelaiatura del ponte. «Calami qui un fagotto per volta, viejo!» gridò ad Anselmo. Il vecchio si sporse più che poté sul ponte, tendendogli i blocchi di dinamite, e Robert Jordan li afferrava, li infilava al loro posto, comprimendoli forte e legandoli. «Dammi i cunei, vecchio! Dammi i cunei!» Sentiva l'odore di legno fresco dei cunei tagliati da poco, che incastrava strettamente per tenere fermo l'esplosivo tra gli elementi del ponte. Poi una bomba esplose, poi un'altra esplosione si mescolò allo scroscio dell'acqua, poi da quella parte si ristabilì la calma. «Maledizione!» egli pensò. «Ora vorrei sapere che cosa è successo laggiù!» Si accertò che tutto fosse a posto, poi, per ottenere maggiore solidità, incastrò un altro cuneo fra le bombe, in modo da fissare solidamente l'intera carica contro l'acciaio. «Ora dall'altra parte, viejo!» gridò ad Anselmo, arrampicandosi su per l'intelaiatura come un Tarzan sanguinario, pensò, in una foresta di fili di ferro. La fucileria sulla strada aumentò violentemente e si udì di nuovo lo scoppio delle bombe, poi altre bombe. Finalmente hanno dato l'assalto alla segheria. «Dammene ancora, vecchio Anselmo!» disse. Il vecchio annuì. «Ho quasi finito!» disse Jordan. Il vecchio crollò di nuovo la testa. Mentre finiva di legare le bombe, non udì più la sparatoria sulla strada. Dall'oscurità fresca sotto il ponte, Robert Jordan si protese del sole sfolgorante e gridò verso la faccia piegata di Anselmo. «Dammi il rotolo grosso di filo!» Il vecchio glielo tese. «Per l'amor di Dio, purché non mi scoppino proprio adesso, le farò scoppiare tirando questo filo!» Si accertò che le bombe, legate di lato, avessero spazio sufficiente per lo scatto delle spolette appena strappati i cunei. Il filo che legava passava sotto le spolette. Poi attaccò a uno degli anelli un lungo filo. Lo avvolse al filo principale attaccato all'anello della bomba esterna, srotolò un altro po' di filo dal gomitolo e lo girò intorno a una trave di acciaio. Poi ne tese l'estremità ad Anselmo. «Sta attento!» gli disse. Si arrampicò sul ponte, tolse il filo al vecchio e tornò indietro, srotolando più in fretta che poteva il filo, verso il punto dove la sentinella morta stava distesa sulla strada, appoggiandosi al parapetto del ponte e seguitando a srotolare filo mentre camminava. «Porta i sacchi!» gridò ad Anselmo mentre indietreggiava. Nel passare raccolse il fucile mitragliatore e se lo mise in spalla. Fu allora che, alzando la testa, vide in fondo alla strada quelli che tornavano dal posto di guardia più in alto. Erano in quattro, vide, e poi dove badare che il filo non gli si ingarbugliasse nell'intelaiatura esterna del ponte. Eladio non era con loro. Robert Jordan portò il filo senza ingarbugliarlo oltre la testata del ponte. Fece un cappio intorno all'ultima trave e poi infilò di corsa la strada fermandosi accanto a una pietra miliare. Qui tagliò il filo e lo tese ad Anselmo. «Tieni questo, viejo», disse. «Ora indietreggia con me fino al ponte. Riavvolgilo camminando. No, aspetta, faccio io. Riportalo fino a quella grossa pietra», gli disse. «Tienilo leggermente ma stretto, non tirare. Se tiri forte il ponte salta per aria, comprendes?» «Sì». «Maneggialo con cura, ma non lasciarlo pendere, potrebbe imbrogliarsi. Tienilo leggermente, ma tienilo ben stretto e non tirare prima del momento buono, comprendes?» «Sì». «Quando tirerai, tira forte, che non ti tremi la mano». Parlando, Robert Jordan guardava su per la strada verso i resti della banda di Pilar. Ora erano vicini ed egli vide che Primitivo e Rafael sostenevano Fernando. Fernando doveva essere stato colpito all'inguine, perché si premeva lì le due mani mentre l'uomo e il ragazzo lo sostenevano. La gamba destra gli pendeva e la scarpa strisciava di lato sulla strada. Pilar portava tre fucili e si stava arrampicando sul terrapieno per entrare nel bosco. Robert Jordan non vedeva la sua faccia, ma notò che aveva la testa alta e si arrampicava più in fretta che poteva. Thank you. Robert Jordan girò la testa. I tre erano sul ciglio della strada e tentavano di dissare su Fernando, che scuoteva il capo. «Datemi un fucile», sentì dire Robert Jordan. «No, ombre, ti porteremo fino ai cavalli». «A che mi serve un cavallo?» disse Fernando. «Qui sto benissimo». Robert Jordan non udì il resto perché parlava con Anselmo. «Fallo saltare se vedrai delle autoblinde, ma solo se vengono sul ponte». Fallo saltare se vedrai dei carri armati infilare il ponte. A tutto il resto penserà Pablo. Anselmo vide Robert Jordan correre sul ponte, il rotolo di filo sul braccio, le pinze appese al polso e il fucile automatico sulla schiena. Lo vide insinuarsi sotto il parapetto del ponte e sparire. Guardò l'altra garitta e in pieno sole, poi, ricordandosi che teneva in mano il filo, voltò la testa verso il posto dove Fernando stava parlando a Primitivo e allo Zingaro. «Lasciatemi qui», diceva Fernando. «Mi fa molto male e c'è una forte emorragia dentro. Me la sento dentro se mi muovo». «Ti porteremo su per la salita», disse Primitivo. «Mettici le braccia intorno alle spalle e noi ti prenderemo per le gambe». «È inutile», disse Fernando. «Mettetemi qui, dietro un macigno. Su non vi sarei più utile che qui». «Ma e quando ce ne andremo?» disse Primitivo. «Lasciatemi qui», diceva Fernando. «È impossibile che io possa viaggiare in questo stato. Così avrete un cavallo in più. Qui sto benissimo. Gli altri verranno certamente presto». «Che è successo a Eladio?» Lo Zingaro si toccò la testa con un dito per indicare il punto della ferita. «È stato colpito qui», disse. «Dopo di te, quando abbiamo attaccato». Lo Zingaro si batté la mano sulla testa e fece segno a Primitivo col pollice che era ora di andare. «Verremo a prenderti poi», disse Primitivo avviandosi su per la salita dietro lo Zingaro che si arrampicava veloce. Anselmo si rimise a guardare verso il ponte. Aspettava di vedere apparire sul parapetto il rotolo del filo, seguito dalla testa e dalla faccia abbronzata dell'inglese di ritorno sul ponte. Spiava nello stesso tempo se qualche cosa apparisse in fondo alla curva della strada oltre il ponte. Robert Jordan guardò allora Fernando, che, buttato sul terrapieno, si proteggeva con le mani il buco nell'inguine, le labbra livide, gli occhi serrati, respirando lentamente e con fatica, e pensò: «Se devo morire, che non sia una cosa lunga». «No, no, ho detto che non avrei chiesto altro se mi veniva concesso quello che mi occorreva oggi. Non chiederò niente allora, capito? Non chiedo niente, assolutamente niente. Dammi quello che ho chiesto e tutto il resto lo lascio alla tua discrezione». Ascoltò il rumore lontano della battaglia nella gola e disse a se stesso: «In verità questo è un gran giorno. Dovrei rendermene conto e capire che giorno è questo. Su per il versante, Pilar sorvegliava da dietro un albero la strada che saliva dal valico. Aveva a portata di mano 3 fucili carichi e quando Primitivo si buttò lungo accanto a lei, gliene tese uno. «Mettiti lì», gli disse, «dietro quell'albero. Tu, Zingaro, laggiù», e accennò a un altro tronco più in basso. «È morto?» «No, non ancora», disse Primitivo. «È stata una disgrazia», disse Pilar. «Non sarebbe accaduto se avessimo avuto altri 2 uomini. Fernando avrebbe dovuto strisciare dietro il mucchio di segatura. E ora? Sta bene, dov'è?» Primitivo scosse il capo. «Quando l'inglese farà saltare il ponte, le schegge arriveranno fin qui?» chiese lo Zingaro di dietro il suo albero. «Non lo so», rispose Pilar. «Non ti far prendere dalla paura ora. Ho solo chiesto se le schegge arriveranno fin qui, per starmene ben nascosto dietro l'albero», disse lo Zingaro. «E tu statene nascosto», disse Pilar. «Quanti ne abbiamo uccisi?» «Pues, 5 noi altri, 2 qui. Non lo vedi quell'altro in fondo al ponte? Guarda lì verso il ponte. Vedi la garitta? Guarda! Hai visto? Pablo giù ne ha poi levati di mezzo altri 8. Li ho contati per l'inglese». Pilar grugnì. Poi disse rabbiosa con violenza. «Che combina quell'inglese? Che sta fregando sotto quel ponte? Sta fabbricando un ponte o lo sta facendo saltare?» Proprio in quell'istante Udirono tutti scoppiare la sparatoria sulla strada, dove Pablo difendeva il posto che aveva preso. Pilar smise di bestemmiare e tese l'orecchio. «Ai», disse. «Ai, ci siamo». Robert Jordan udì anche lui, mentre con una mano buttava sul ponte il rotolo del filo e ci si issava a sua volta. Quando le sue ginocchia furono sull'orlo del ponte e le sue mani a terra, la mitragliatrice cominciò a sparare giù alla svolta. Era un suono molto diverso dal fucile automatico di Pablo. Robert Jordan si rizzò in piedi, si piegò, fece passare il filo senza ingambugliarlo e incominciò a dipanarlo camminando a ritroso e di sghembo sul ponte. Teneva ben teso il filo e finalmente fu proprio davanti alla pietra di Anselmo e la strada era sempre libera sotto il ponte. Poi a un tratto udì un camion scendere la strada e girando la testa lo vide arrivare sulla lunga discesa. Si avvolse il filo intorno al polso e urlò ad Anselmo «Via!» e affondò i tacchi nella terra e si piegò indietro tirando sul filo teso avvolto intorno al polso. Dietro di sé sentiva il rumore del camion e aveva davanti la strada con la sentinella morta e il lungo ponte e il tratto di strada in basso sempre libero e a un tratto si udì un rombo. E il centro del ponte si sollevò in aria, come un'onda che si infrange, ed egli sentì il risucchio dell'esplosione investirlo e si buttò a faccia avanti nella cunetta pietrosa, premendosi forte le mani sulla testa. Teneva la faccia schiacciata contro i ciottoli quando il ponte ricadde e l'odore sulfureo familiare dell'esplosione lo avvolse in un fumo acre e poi cominciarono a piovere schegge di acciaio. Quando l'acciaio smise di cadere, egli era ancora vivo. Alzò la testa e guardò il ponte. La parte centrale era sparita. Sulle estremità del ponte e su tutta la strada si vedevano frammenti di acciaio con gli orli freschi e lucidi. Il camion si era fermato a forse 50 metri e il conducente e i due uomini che erano con lui correvano verso la cunetta. Fernando era sempre steso contro il terrapieno e respirava ancora, le braccia abbandonate lungo i fianchi e le mani aperte. Anselmo giaceva a faccia all'ingiù, dietro la bianca pietra miliare, con il braccio sinistro ripiegato sotto la testa e il braccio destro completamente steso. Aveva ancora il filo avvolto intorno al polso destro. Robert Jordan si alzò, attraversò la strada, gli si inginocchiò accanto e si accertò che era morto. Non lo rivoltò per vedere che cosa avesse fatto la scheggia di acciaio. Anselmo era morto e basta. Posò uno dei fucili accanto a Pilar, che stava accovacciata dietro un albero. Lei voltò la testa e vide che aveva di nuovo accanto tre fucili. «Siete troppo in alto qui», egli disse. «Sulla strada c'è un camion che di qui non si vede. Quelli là hanno creduto che fossero aeroplani. Fareste bene a mettervi un po' più in basso. Io vado giù con Agustin a coprire Pablo». «Il vecchio?» gli chiese Pilar guardandolo in faccia. «Morto». Egli ebbe un accesso convulso di tosse e sputò in terra. «Il tuo ponte è saltato, Inglese», disse Pilar guardandolo. «Non te ne scordare». «Io non mi scordo di niente», disse egli. «Tu hai una voce molto forte. Ti ho udita urlare. Chiama un po' Maria e dille che sto bene». «Vado da Agustin. Apposta lo zingaro molto più in basso, perché possa sorvegliare bene la strada. E questi fucili dalli a Primitivo. E tu prendi questa macchina. Ora ti faccio vedere». «Tieni tu la macchina», disse Pilar. «Non saremo sempre qui. Pablo arriverà a momenti e ce ne andremo». Proprio in quell'istante udirono gli aeroplani. Maria stava da un pezzo con i cavalli, ma i cavalli non le erano di conforto, né lei a loro. Dal punto della foresta dove si trovava, non vedeva la strada né il ponte, e quando il fuoco cominciò, mise il braccio attorno al collo del grande stallone Baio con la stella bianca, che aveva accarezzato tante volte e al quale aveva portato da mangiare quando i cavalli erano nel recinto tra gli alberi, sotto il campo. Ma il suo nervosismo rese nervoso anche lo stallone, che alzò la testa e dilatò le narici udendo gli spari e gli scoppi delle bombe. Maria, che non poteva star ferma, girava tra i cavalli carezzandoli e blandendoli e rendendoli sempre più nervosi e agitati. Cercava di pensare al fuoco, non solo come a una cosa terribile che stava accadendo, ma ragionando che Pablo era in basso con i nuovi uomini e Pilar con gli altri uomini in alto, e che lei non doveva preoccuparsi né abbandonarsi al panico, ma aver fiducia in Roberto. Poi cominciò a pregare per Roberto, in fretta e automaticamente, come faceva quando era a scuola, dicendo le preghiere più presto che poteva e contandole sulle dita della mano sinistra, 10 e poi 10 di ognuna delle due preghiere che ripeteva. Poi il ponte saltò e un cavallo si inalberò, ruppe la cavezza e, agitando la testa tra gli scoppi assordanti, corse via tra gli alberi. Maria riuscì finalmente a riprenderlo e lo ricondusse, tremante, percorso da brividi, il torace nero di sudore, la sella sciolta, e mentre tornava indietro fra gli alberi, udì sparare in basso e pensò: «Oddio, non so, non ci resisto più. Oh, per pietà, fate che non gli sia successo niente, perché tutto il mio cuore, tutta me stessa, sono sul ponte. La Repubblica è una cosa, e il fatto che dobbiamo vincere è un'altra, ma Santa Vergine benedetta, riconducilo a me da quel ponte, e io farò sempre tutto quello che vorrai, perché non sono più qui, io non ci sono più, io sono soltanto con lui. Abbi cura di lui per me, e io sarò lui, e poi farò qualsiasi cosa per te, e lui non me lo proibirà». Era intanto riuscita a legare il nuovo cavallo e a rimettere la sella sopra la coperta ben piegata, e stava tirando con tutte le sue forze la fibbia del sottopancia quando udì la voce grossa, profonda di Pilar salire dal bosco sottostante. «Maria! Maria! Il tuo inglese è vivo e sano! Mi senti? Mi senti? Sin novedad!» Maria si aggrappò con ambedue le mani alla sella e, premendovi sopra la testa tosata, scoppiò a piangere. Udì di nuovo urlare la voce profonda e si staccò dalla sella e gridò con voce strozzata: «Sì, grazie!» Poi, sempre con voce strozzata: «Grazie, grazie molte!» Quando udirono gli aeroplani, guardarono tutti in alto, e gli aeroplani venivano da Segovia, volando molto alto nel cielo, argentei nel cielo alto. Il loro rombo soffocava ogni altro rumore. «Eccoli», disse Pilar. «Proprio loro ci mancavano». Robert Jordan le mise il braccio intorno alle spalle, guardando in alto. «No, donna», disse. «Questi non vengono per noi. Calmati. Li odio. Anch'io. Ma ora devo andare da Agustin». Girò intorno alla collina, attraverso i pini, e il rombo degli aeroplani continuava. E al di là del ponte, sulla strada, alla svolta, una mitragliatrice pesante sparava i suoi colpi martellanti a brevi intervalli. Robert Jordan si buttò in terra, dove Agustin era steso tra il ciuffo di giovani pini dietro il fucile automatico, e intanto seguitavano ad arrivare altri aeroplani. «Che cosa accade lì sotto?» disse Agustin. «Che cosa fa Pablo? Non lo sa che il ponte è saltato? Forse non può andarsene. Allora andiamocene anche noi, lui vada all'inferno». «Ora verrà, se potrà», disse Robert Jordan. «Tra poco lo vedremo». «Non lo sento più», disse Agustin. «Da 5 minuti, no. Ah, no, un momento. Senti, eccolo. Ecco Pablo». Si udì una raffica della piccola mitragliatrice da cavalleria, poi un'altra e un'altra. «È quella canaglia», disse Robert Jordan. Thank you.